Ed ora, finalmente, la parola al carissimo professor Umberto Potocnik per il ricordo, per la memoria, che potremmo considerare il ritorno agli inizi. Prego. Quando Bruno Kessler ci ha lasciato, erano trascorsi già molti mesi dal mio ultimo incontro con lui. La notizia della sua morte mi ha colto così quasi di improvviso, senza che mi fosse data la possibilità di dargli da vivo un ultimo saluto. Mi è dispiaciuto questo fatto, ma ripensandoci oggi quasi mi convinco che per me è stato meglio così. Il ricordo che conservo di lui rimane legato ai momenti centrali della sua vita, quando massimi erano i suoi impegni nella vita politica, culturale, della città, della provincia, della regione e poi da ultimo come senatore nell'intero paese. Ma nulla avviene a caso. Questo modo di ricordarlo è coerente col tipo di rapporti che non soltanto io, ma molti come me, hanno avuto con lui, collaborando dal di fuori agli obiettivi che lui aveva voluto perseguire e per il cui raggiungimento si era tanto adoperato. L'esperienza mia e di molti altri, specie oggi in un momento così appesantito da disturbi di crisi istituzionale, l'esperienza mia e di molti lascia intravedere che un corretto rapporto tra politici e tecnici nella progettazione dei nuovi assetti dei poteri pubblici e della società civile non è più così impossibile e fuorviante come taluno vorrebbe far credere. Voglio dire che nei lunghi anni in cui Bruno Kessler, anche per l'autorevolezza della carica ricoperta, ha avuto la possibilità di agire per modificare o correggere il quadro istituzionale esistente al fine di adeguarlo ai bisogni reali della sua terra e delle collettività che vi risiedono e durante i quali è maturata l'esigenza di un coinvolgimento sempre più largo in questo lavoro, quasi una sorta di mobilitazione generale, ecco che Bruno Kessler ha mostrato di essere, come pochi altri, pienamente consapevole e particolarmente attento a non confondere tra loro il ruolo dei tecnici e quello dei politici. In effetti, per ciascuna delle grandi idee maturate negli anni della presidenza Kessler alla provincia, è possibile individuare limpidamente quale è stata in lui l'idea di partenza e quale l'obiettivo politico dell'iniziativa. Comincerei col PUP, il piano provinciale, urbanistico provinciale, che costituisce sicuramente uno dei traguardi più ambiziosi e più prestigiosi di tutta la politica autonomistica spesa su questo territorio. Un traguardo che oggi sembra scontato, alla luce soprattutto della radicale sproporzione emersa nel frattempo fra bisogni della pianificazione urbanistica e dimensioni territoriali dei piccoli comuni. Ma un traguardo che Bruno Kessler intuì doversi ricercare e coltivare sin dagli inizi degli anni Sessanta, ben prima dunque, anzi molto tempo prima del nuovo Statuto di Autonomia, intravedendo come attraverso le previsioni di un piano urbanistico esteso all'intera provincia sarebbe stato possibile orientare coerentemente tutta l'attività legislativa e amministrativa, ma anche le iniziative degli operatori privati. Di qui anche la convinzione che questa era un'occasione che doveva assolutamente non andare perduta e per la cui realizzazione era sì necessario l'aiuto, la collaborazione dei tecnici, ma che si doveva reggere soprattutto sulla volontà radicata e ferma dei politici e sul sostegno dei cittadini. Kessler era consapevole di tutto ciò, con grande lungimiranza, e sapeva renderne partecipi i cittadini suoi contemporanei con un linguaggio sempre attento a cogliere le implicazioni politiche delle scelte da affrontare che a prendere su di sé le relative responsabilità. In documenti remoti della giunta provinciale, quando Kessler ne era il presidente, questo suo modo di lavorare risulta espressamente dichiarato. Nel programma della provincia di Trento per gli anni 61-64, poco dopo dunque la sua investitura come presidente della provincia, egli stesso, dopo aver ricordato i diversi indirizzi che esistevano a quel tempo tra i cultori delle scienze urbanistiche, Kessler dice a chiare lettere quali sono gli orientamenti di azione che la Giunta intende proporre agli urbanisti, senza lasciare a questi dunque la responsabilità delle scelte, ma al contrario pienamente consapevole di doverle assumere personalmente e nelle sedi appropriate. Ma c'è sicuramente anche una seconda vicenda a cui il nome di Bruno Kessler resta legato, la vicenda dei comprensori. So che tocco un tasto delicato, ma so anche che la provincia autonoma di Trento è stata la prima a realizzare un livello intermedio e generalizzato di amministrazione locale tra comuni e provincia autonoma. I comprensori sono nati tra difficoltà infinite, tra resistenze palesi ed occulte, tra inadeguatezze connaturali e ripetute, eppure hanno pure trovato un loro spazio, specie dopo che la legge 1102 ha previsto l'istituzione delle comunità montane e la provincia di Trento, ma forse sarebbe meglio dire il suo presidente, ne ha approfittato per ricondurre a tale figura i comprensori, affidando a questi non solo una fase della pianificazione territoriale, ma la programmazione dello sviluppo socio-economico. Vorrei citare a questo proposito quanto dichiarava egli stesso in una intervista al direttore dell'Adige nel febbraio del 91 in risposta alla domanda su quale idea egli avesse per il futuro. È quell'intervista che già prima qualcuno ha ricordato. Il professor Arrivo ha ricordato. Dice in questa intervista Kessler: io sostengo che la provincia è finita, cioè che l'autonomia è a regime, dispone di norme e di finanziamenti. Ora si tratta di usare questo enorme potere in modo diverso. Come? Diffondendolo, distribuendolo, collocandolo nel territorio. Occorre che tutti, piccole comunità locali, comuni, comprensori, consorzi, si assumano le loro responsabilità. La provincia resta la madre, ma le comunità devono smetterla di fare la spesa portando il conto a Trento. Questo bisogna innanzitutto fare, distribuire il potere, non concentrarlo. E qui vorrei dire due parole sul mio grande cruccio, che sono i comprensori. Sul fronte della cultura urbanistica, 25 anni fa, noi trentini eravamo i primi in Italia. Lavoravo con Samonà, ricordo che ebbi allora il primo premio dell'Istituto Nazionale di Architettura. La mia legislatura urbanistica prevedeva che solo Trento e Rovereto si dotassero di un piano regolatore. Il resto era affidato ai piani comprensoriali, con i piani di fabbricazione come strumento intermedio. Ebbene, in questi anni quasi nessuno ha governato il proprio territorio sulla base del piano comprensoriale. Ad eccezione della Val di Sole e del Primiero, nessuno li ha fatti, questi piani. Una grande occasione perduta e per me, ripeto, un grande cruccio. Ora c'è una legge regionale che consente alla provincia di trasferire poteri e competenze ai comuni, almeno questo facciamolo. Un terzo, ma non per questo meno importante traguardo dell'impegno profuso da Bruno Kessler fu, come tutti sanno, la istituzione dell'Istituto Trentino di Cultura. Ne parlo rapidamente perché già altri, meglio di me, l'hanno fatto, ricordando soltanto che quale dovesse essere la collocazione e il ruolo di questo istituto nel contesto di idee, di esperienze, di prospettive, tutte orientate ad essere manifestazione di autonomia, è apparso subito chiaro, perché il suo ideatore non vuole nascondere a nulla, a nessuno, che il suo progetto di arrivare attraverso, che il suo progetto era quello di arrivare attraverso l'ITC ad una università trentina, a servizio dei giovani soprattutto, ma in grado altresì di tenere alto il livello culturale della vita trentina. Per mia fortuna fece allora l'esperienza di inventare con lui la strada dell'Istituto Trentino di Cultura e attraverso questo progettare l'istituzione dell'università che non figurava tra i servizi assicurati dallo Statuto Speciale. Inaugurando nel 1986 i nuovi spazi destinati alle attività culturali dell'ITC, Bruno Kessler ripeteva con forza e con volontà ferrea quale fosse il suo progetto per la trasformazione della società e delle istituzioni trentine. Non si stancava di ripetere, cito anche qui testualmente, che l'Istituto era nato come strumento dell'autonomia speciale del Trentino, come tassello fondamentale di un disegno complessivo di modernizzazione di questa piccola comunità di periferia. La istituzione dell'Università Libera dapprima, la sua trasformazione poi in università statale, pur costituendo il riconoscimento migliore della validità di un'idea, sono altrettante tappe di un cammino che Kessler ha saputo stimolare e incoraggiare giorno dopo giorno, sempre nella prospettiva di un miglioramento e di un rafforzamento dell'idea originaria, trasformata in nuovo obiettivo. Kessler non era amante delle cose semplici, soprattutto non era soddisfatto che si facessero purché sia, ma voleva che ci si desse carico di verificare se l'obiettivo raggiunto era quello desiderato. Scrive Kessler nel 1986, il disegno contenuto nella legge istitutiva dell'università rappresenta ancora oggi uno dei punti più avanzati dell'ordinamento universitario italiano, proprio nel senso dell'autonomia, e quindi di più ampi spazi di libertà nel progettare e nel realizzare gli studi, autonomia che è la nostra bandiera di tutto l'operare politico fin qui fatto in questa terra. E tutto questo è stato inventato e via via costruito sulla base di un comma dello Statuto Speciale del Trentino Alto Adige che gli diceva soltanto, in modo scarno, per l'eventuale istituzione di università nel Trentino Alto Adige, lo Stato deve preventivamente sentire il parere della Regione e della provincia interessata. Da poco è nato molto. Moltissimo. Non è un caso poi che alla luce di queste sue aspirazioni Kessler riproponga in termini aggiornati l'idea dell'ente pubblico, caratterizzato dal fatto di avere istituzionalmente determinati obblighi nei confronti dei nostri rappresentati, della popolazione che noi qui amministriamo. Abbiamo il dovere, scriveva Kessler, abbiamo il dovere di soddisfare per la parte di responsabilità che a noi sono, per le parti di responsabilità che a noi sono attribuite, le esigenze della nostra gente. Questo ente pubblico deve però, per così dire, avere in sé la capacità di essere sensibile a quello che è il momento nel quale vive, adeguarsi e cercare di organizzarsi in maniera da soddisfare organicamente le esigenze della popolazione. Quindi il concetto nostro di ente pubblico non è che non avesse delle idee, rivendicava il concetto nostro di ente pubblico, è il concetto di un ente pubblico modernamente concepito e dinamico che incide in modo attivo e propulsore sulla società che amministra. Ho citato tre cose, tre iniziative distinte di cui Bruno Kessler è stato animatore, creatore. Esse hanno tuttavia, considerate assieme, una valenza unica, perché unico è l'obiettivo cui sono preordinate, l'obiettivo che egli ripeterà all'infinito senza mai stancarsi è quello dell'autonomia e delle connesse responsabilità. Il PUP, i comprensori, l'università sono tutti strumenti e occasioni per allargare le responsabilità coinvolgendo il maggior numero di persone e anticipando, laddove possibile, le innovazioni maggiori che spettano ad altri. Cito anche qui sue parole, che risalgono, è vero, ad anni lontani, ma che hanno una validità permanente. Non dimentichiamo, diceva Kessler, che siamo una provincia autonoma, il che costituisce un unicum nel sistema dell'ordinamento giuridico e costituzionale del nostro Paese. Appunto perché è un unicum, rappresenta ancora quasi un esperimento su questo piano. Ed infatti lo è. Ma questo esperimento siamo noi a farlo. Può riuscire più o meno bene a seconda del nostro impegno, per cui abbiamo una responsabilità che non è soltanto sul piano del soddisfacimento delle esigenze per le quali siamo qui a lavorare, ma abbiamo una responsabilità più ampia ed esterna nei confronti con la rimanente parte della Repubblica. L'autonomia non è una rivendicazione di competenze, è anche quello, ma soprattutto una rivendicazione di libertà e di partecipare responsabilmente al processo evolutivo di tutto il Paese. Kessler non ignora le difficoltà, sa che l'obiettivo è ambizioso e che un progetto così fatto può apparire utopistico o ingenuo. Sa anche che le capacità di resistere agli attacchi degli oppositori non sono illimitate. Per questo rivolge un appello accorato quando, concludendo la replica ad un consigliere di opposizione, diceva: criticateci anche in futuro, sollecitateci, se ne avremo bisogno, pungolateci. Di una cosa però vi prego, non siate scettici, non cercate di toglierci il mordente che oggi abbiamo. Questo non fatelo, la vostra critica sviluppatela in tutte le direzioni, ma non in quella dello scetticismo, perché questo potrebbe andare ad incidere negativamente sul nostro entusiasmo e rappresentare per noi una difficoltà più grave di quelle previste per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissi. Ci siamo detti, la situazione della nostra provincia, la situazione della nostra gente, ci pare tale per cui un tentativo, anche se dovesse rimanere solo tale, va fatto. Secondo noi va fatto anche se dovesse naufragare, in quanto potrà essere un'esperienza utile per coloro che verranno dopo di noi nella scia di una certa volontà di fare. E questa è la considerazione che ci ha aiutato a dire: tentiamo, proviamo, facciamo. Potrei fermarmi qui, perché in queste parole di Bruno Kessler sta racchiusa gran parte dello spirito con cui egli ha operato ed è stato presente tra noi. Ma non posso omettere in chiusura altre sue parole, pronunciate all'inizio di uno dei suoi primi mandati, quale presidente della giunta provinciale, e rivolte esplicitamente, per sua dichiarazione, a tutti i consiglieri e quindi anche a quelli avversari o di opposizione. Queste sono parole sue. Una considerazione ci ha aiutati a superare le nostre perplessità. L'abbiamo trovata nella convinzione che la vostra collaborazione, di tutti voi, non ci mancherà. Contiamo veramente sulla collaborazione di tutti i consiglieri. Vi dirò che contiamo su una collaborazione ufficiale, pubblica, che è quella che si esplica nel Consiglio, ma personalmente mi ostino ancora a contare soprattutto, e sono certo di essere nel giusto, su una collaborazione meno ufficiale, ma non per questo meno valida. La collaborazione umana, la collaborazione del contatto di ogni giorno, la collaborazione delle parole, dei rapporti umani che quotidianamente fra di noi si intrattengono. Io conto veramente su questo. E poco oltre. Altro elemento signori consiglieri, che ci aiuta a superare questi dubbi è anche questo: presentando un programma da voi tutti definito molto impegnativo, contiamo, oltre che sulla collaborazione, di cui ho appena parlato, su una certa comprensione. Vi pregherei di prendere nel giusto valore questo termine. Spero, cioè, che il vostro giudizio futuro sia sì un giudizio critico, politico, ma sia anche un giudizio che tenga conto delle effettive difficoltà nelle quali saremo obbligati ad operare per la realizzazione del programma. Tutti questi esposti sono gli elementi che ci hanno portato con entusiasmo, con molta buona volontà, con onestà di intenti e senza presunzioni, a presentare al Consiglio il presente programma. Le ultime battute. Abbiamo sentito da qualche parte parlare di antenati, giustificare posizioni con il ricorso al casato, menzionare figli di liberali passati al comunismo. Lasciate che vi dica chiaramente una cosa, anche perché mi conosciate meglio. Io non sono erede né di grandi antenati né di grandi letterati né di uomini di alta cultura. Sono figlio di umilissima gente. Mio padre era un operaio e la forza che pongo nelle mie impostazioni non mi deriva da risorse culturali molto fini o molto radicate nei miei antenati, ma dall'ambiente nel quale sono vissuto e al quale mi sento profondamente legato e dall'insegnamento che la gente modesta che mi stava e mi sta ancora intorno mi ha dato. Tale insegnamento mi dice che ho il dovere sacrosanto di fare ogni sforzo per cercare di migliorarla, questa nostra gente, perché migliorata, meglio attrezzata sul piano spirituale, essa ha in sé una forza naturale e potente che sarà senza dubbio elemento determinante del potenziamento di tutta la nostra collettività. Ecco, a me pare di leggere in queste parole il suo testamento. Tocca a noi custodirlo e meditarvi di tanto in tanto per proseguire sulla strada che lui ci ha indicato. Grazie, caro professor Potocki, di questa evocazione che mi sembra abbia anche avuto il senso di un ripercorrere di una parte importante della tua vita e anche qualche ritorno di piacere scoperto di acribia per le invenzioni giuridiche che hai apprestato a questo spirito innovatore. Questo, ne siamo ancora grati per questo, per il passato e per questa commemorazione.